Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Come si può credere che io possa dire che in Italia le donne devono andare in giro con il burka? Eppure vi assicuro che a seguito di questa falsa affermazione ci sono state centinaia e centinaia di commenti. Oppure io avrei deciso di introdurre la tassa sulla carne di maiale e giù! Commenti e commenti, e vi faccio immaginare il tenore dei commenti. Giusto, alcune cose che sono state attribuite alla Presidente e che non sono mai state dette. Saranno date prima le case popolari ai Rom e agli extracomunitari con figli a carico, oppure festeggiare il Natale nelle scuole è sbagliato, le decapitazioni dei cristiani sono secondarie rispetto alle sofferenze dei musulmani, un reddito di dignità, mi corregga se ho sbagliato, un reddito di dignità ai migranti di 630 euro per rilanciare il sogno dell'Unione Europea multietnica, multireligiosa. Aperto un conto a banda. Ora premetto che il Presidente Boldrini può stare simpatico o antipatico come qualsiasi politico sulla faccia della terra, però le va dato atto di una cosa, che ha preso sul serio il fenomeno delle bufale in rete. Sarà perché ne è stata probabilmente una delle vittime più eccelse. Laura Boldrini ha messo su una commissione, ha messo esperti a lavorare sul fatto che potrebbe esistere una sorta di centrale che lancia bufale in rete. Ma soprattutto in Italia noi abbiamo visto in questi ultimi due anni quanto la politica è comunque avuto un suo riverbero concreto anche nella rete. In attivo, in positivo, in negativo, via dicendo, comunque sia ci sono delle vox populi che circolano attraverso i social. Essendo dotati gli italiani di un paio di smartphone a testa circa, ed essendo tutti dai 9 ai 90 anni comunque connessi, comunque consapevoli che in realtà il parere del popolo, l'opinione del popolo si articola, si fortifica, si costruisce, si corrobora anche attraverso i social network, sono tutti ben attenti a osservare quello che circola. Lo osservano con tanta attenzione che qualche giorno fa, e lungi da me fare degli endorsement o prendermela con il governo Gentiloni, in questa fase non è fuori discussione, fuori argomento, ma si era appena parlato di un governo Gentiloni che già girava in rete la voce che Gentiloni, il neopresidente Gentiloni, avrebbe affermato: gli italiani imparino a fare sacrifici e smettano di lamentarsi. Una frase che immediatamente dà la conferma a quanti dicono governo fotocopia, Gentiloni era lo zombie di Renzi, che a sua volta era lo zombie di Monti, che a sua volta era lo zombie dei poteri nascosti, occulti e via dicendo. Beh, questa frase non l'ha mai detta. Non l'ha mai detta perché fa parte comunque di questo sistema. Ora io... Mimmi è testimone che mi ascolta con attenzione. Dall'inizio di questa edizione di Melog comincia a fare delle trasmissioni abbastanza fuori della consuetudine del mio punto di attenzione, dicendo: mi sembra che da un po' di tempo ci sia una sorta di ricorrenza, ci siano dei fenomeni che mi danno l'idea che combacino troppo anche gli attacchi individuali, personali che vengono fatti a tutti noi che comunque abbiamo un'esposizione pubblica. In maniera particolare, a piena ragione probabilmente la maggior parte dei casi verso i giornalisti, esiste una sorta di cliché che mi sembra, che mi fa presupporre che quasi siano attacchi fatti non dico da un robot meccanizzato, ma comunque da persone che hanno una sorta di imbeccata seriale, che agiscono come se agisse un plotone di soldati che si muove secondo un ordine, secondo un protocollo uguale per tutti. Sono stato per questo preso in giro, attaccato, mi hanno detto: difendi la casta, difendi i servi del potere, difendi quelli che come te affamano il popolo, divulgano falsità. Mi prendo tutte le colpe, tutte le responsabilità della mia categoria, senza naturalmente esserne direttamente responsabile come persona. Però oggi vorrei farvi parlare con persone che di mestiere fanno questo, sono persone riconosciute e certificate, e in piena trasparenza e in piena libertà agiscono e lavorano proprio per capire e individuare qual è il meccanismo che fa sì che molti di noi una mattina accendano lo smartphone e tremino per l'indignazione, perché quella o quell'altra persona, che magari va proprio a coincidere con la persona che più ci sta antipatica, che più in quel momento giudichiamo responsabile del nostro malessere, ha detto qualcosa di terribile. 800 24 00 24, cosa c'è all'origine delle bufale? Dove sta il grande vecchio che pensa, immagina, costruisce le bufale di cui poi voi ogni giorno vi fate i propagatori indefessi? A tra poco. Melog, cronache meridiane. Vedo i fili del sistema. Ma che come in Matrix. Io vedo la matrice dietro. Ma di cosa? Tutti sta... i numeri che scorrono. Ma quali fili? Quale Matrix? Di cosa sta parlando? No? Hai mai pensato che quando muore qualcuno di famoso, di scomodo, casualmente, nel mondo succede qualcosa di più grosso che oscura la notizia? Ma cosa stai dicendo? No, non capisco. Faccio un esempio. Sì. Nilla Pizzi e Fukushima. Ma cosa di cosa? Nilla Pizzi muore il 12 marzo 2011 e casualmente il giorno prima in Giappone scoppia un reattore nucleare? Ma cosa stai dicendo? Lo vede il nesso? Ma c'è mai stato un caso, è ovvio. Un e allora come mai è morto Ferruccio Amendola il 3 di settembre del 2001? E solo per 8 giorni dopo che c'è stato l'11 settembre? Ma ora, Napalm 51 sembra un paradosso, uno dei più felici paradossi secondo me degli ultimi mesi partorito dal comico Crozza. Però Napalm 51 è la persona che per primo ogni mattina si mette davanti al suo monitor e della bufala fa immediatamente una realtà. Paolo Attivissimo, buongiorno. Buongiorno. Allora, Paolo Attivissimo è un giornalista, fondatore del blog Il Disinformatico, dedicato alle bufale nel web. È la persona che avete sentito elencare di fronte al presidente Boldrini tutte le bufale che riguardavano comunque il presidente Boldrini. Paolo Attivissimo ha un'attività più che decennale di scopritore di bufale, o sbaglio? Quanti anni sono che te ne occupi? Almeno una ventina. È che io ricordo, Paolo Attivissimo, ancora agli albori del web si parlava di gattini bonsai, Licia Colò impazzì, fecero interrogazioni parlamentari perché girava la voce, già i gattini erano i protagonisti principali della rete che stava nascendo allora, qualcuno fece capire c'erano dei terribili e cattivissimi individui che vendevano delle bottiglie in cui potevano essere infilati dei gattini e crescevano come i bonsai dentro le bottiglie, era uno scherzo fatto da studenti del MIT, ma fu una realtà per tanto tempo e Paolo Attivissimo fu uno dei primi che risalì alla notizia. Oggi si parla di ben altra roba, Paolo. Partiamo dall'iniziativa che parte appunto dal presidente della Camera. Com'è le è venuto in mente un giorno di chiamare un po' di esperti dicendo, vedete, guardate bene cosa c'è all'origine delle bufale? Ma, questo bisognerebbe chiedere forse a lei, ma mi sembra che tutto questo questa discussione che si sta facendo adesso sulle bufale deriva dal fatto che la bufala non è più una bufala, non è più uno scherzo, non è più il gattino bonsai. La bufala è quella che fa crollare le vaccinazioni, la bufala è quella che fa indignare le persone nei confronti delle autorità quando si circola l'idea che la magnitudo dei terremoti venga ribassata in modo da non dover fare i rimborsi. La bufala è una sorta di, come dire, gas nervino che fa male a tutti, non è una questione di politica destra, sinistra, è un modo di disinformare che in realtà crea solo astio, acidità dappertutto. Ha fatto un salto di qualità, insomma. La bufala della magnitudo dei terremoti poi ha dato necessità che poi qualcuno istituzionalmente la smentisse, come se dovessi smentire una cosa talmente paradossale. Ci sono stati giorni e giorni in cui le persone dovevano smentirle, ancora persone scrivono i social, avete visto, hanno abbassato la magnitudo per non dare i rimborsi del terremoto. Sì, queste cose capitano in continuazione e la cosa paradossale è che quando arriva la smentita dell'autorità competente viene vista come una conferma della cospirazione. Certo, la solita pezza a colori viene messa sopra per nascondere la bufala e rientra Napalm 51, come vedi. Il pensiero è autogenerante e si sostiene sulla sua stessa follia. Sì, infatti, però bisogna fare attenzione, secondo me, a non finire nella trappola di pensare che questo sia un processo che nasce, come dire, dalla ingenuità, dalla stupidità degli utenti. Mai questo pensato. Molto spesso è un processo pilotato. Ecco, io quello che cerco di dire da mesi, e mi sembra che tu, insieme ad altre persone che abbiamo qui con noi, siete riusciti a risalire all'origine, alla sorgente di tutte le bufale. Sì, beh, non è la sorgente di tutte le bufale. Delle più grosse. è una delle tante sorgenti di questa piovra delle panzane, chiamiamola così. Esiste un'industria che lucra, guadagna soldi diffondendo notizie shock di qualunque genere, come per esempio faceva liberogiornale.com, usa un nome che molti scambiano per quello di una testata giornalistica molto conosciuta e pubblica finte notizie di ogni genere e senza guardare a colori politici o altro. Per esempio, prima della sua autosospensione, questo sito citava l'annuncio di Gigi D'Alessio che diceva addio al mondo della musica dopo la vittoria, vado a cantare in un altro paese. Ma quali sono gli indirizzi e le testate che poi scimmiottano, cambiando qualche lettera, i nomi di vere testate, che maggiormente sono fatte veicolo di questo flusso di bufale? Poi ci dirai anche da dove nasce, visto che sei arrivati all'origine. Ma ce ne sono moltissime, cito appunto quella che abbiamo visto prima, liberogiornale.com, ma c'è Gazzetta della Sera, o altri siti come per esempio news24tg.com, ilfattoquotidaino.com, non quotidiano, quindi nomi che chiaramente... Il Corriere ispirano. Della Notte pure, mi pare. Anche sì, ce ne sono in continuazione, nascono e muoiono, c'è un'evoluzione continua. La gente pensa che siano delle guardando distrattamente, che corrispondano alle testate che realmente hanno dei nomi con delle assonanze simili, Libero, Il Quotidiano, Il Corriere della Sera, Sky TG24, il TG.com e via dicendo. In realtà non c'entra nulla. E, no, infatti. E chi alimenta questo flusso? Molte persone che hanno scoperto che questo è un business abbastanza remunerativo, ci sono imprenditori grandi, piccoli, che decidono che questo è un modo facile per fare soldi, costituiscono società, creano una rete di piccoli siti che poi vengono pompati attraverso i social network con delle affiliazioni, con delle alleanze, molti utenti diventano pompatori inconsapevoli. Ecco, i pompatori sono pagati, lo sai perché te lo chiedo Paolo? Perché io ho avuto l'impressione spesso, in molti attacchi che vedo fare, io parlavo in un periodo degli attacchi fatti ai giornalisti, che poi possono averci anche pienamente ragione, ma avendo un cliché troppo uguale per tutti, mi sembra che... come se delle persone avessero, come quelli che ti chiamano a casa per dirti se vuoi fare un nuovo abbonamento alla rete del gas dell'elettricità, che dicono sempre tutte le stesse cose, come se avessero un foglietto scritto. Ecco, chi è che prepara i foglietti e chi è che viene pagato per diffondere i foglietti, mettiamola così. Ma non so fino a che punto ci sia una vera e propria regia o cospirazione, credo che questo genere di attacco derivi in gran parte dal fatto che molti pensano allo stesso modo, ossia quando qualcuno sbuffa da un sito che diceva quello che a loro piaceva che fosse detto, improvvisamente si svegliano e tutti hanno lo stesso tono di indignazione. Gli attacchi che ho subito io per esempio sono più o meno solo, tutti sullo stesso stampo, ma tu chi sei? Sei pagato dal governo? Certo. Sei dei poteri forti? Mancano solo i rettiliani che arriveranno prima o poi sicuramente, ma l'idea è che ci sia, come dire, un sentire comune più che un coordinamento. È vero comunque che le indagini che stiamo facendo io e David Puente mostrano anche che c'è una vera e propria fabbrica di risonanza, cioè ci sono persone che o per adesione ideologica o per guadagno diretto decidono di gonfiare queste notizie, quindi la voce di Gentiloni aveva un chiaro sfondo politico o motivo politico, perché non credo che un bufalaro che deve vendere pubblicità gli venga in mente di far dire al neo presidente del Consiglio questa frase così poco popolare, anche così poco intelligente, imparino a fare sacrifici, anzi, e smetta di lamentarsi. Anzi, al contrario, più la notizia è shock, più è cliccata, e il click genera pubblicità, genera introiti. Quindi deve essere una notizia che sia al limite della plausibilità, ma abbastanza sconvolgente da creare interesse. Fermati un attimo, Paolo, un attimo, sento due ascoltatori, 80024, 0024, Matteo, 21 sì, anni. Salve. 21 anni. Salve. Dunque, io volevo, non so se è stato detto, ma quest'arma del clickbait è usata anche dal Movimento 5 Stelle, soprattutto, perché la Casaleggio Associati gestisce tre siti internet, che sono Zezè, La Cosa e La Fucina, che fanno esattamente questa cosa. Generano articoli con titoli sconvolgenti che lasciano chi li legge sconvolti, indignati, vengono condivisi sui social network e questi generano molte condivisioni e click che andando sul sito fanno guadagnare grazie alla pubblicità. Fammi un esempio, ando per capire. Io voglio mantenermi al di sopra delle parti, però questo è in effetti un dato che, se esiste... Eh, anche slegato da partiti politici, ma ci sono tre siti internet che hanno tre pagine Facebook associate, che gestiti proprio, se uno va nel sul sito, va in fondo e vede la partita IVA di chi gestisce il sito, fa un copia e incolla su Google, vede che è la partita IVA di casa della categoria sociale. E che quali sono i siti? Zezè, La Cosa e La Fucina. Quindi il clickbait sarebbe, diciamo, è il corrispondente che il mercato ti dà per ogni persona che va a cliccare su quella notizia. Il clickbait è il fenomeno, sì. Cioè la chiappa click, cioè una notizia sconvolgente, diciamo, che lascia chi legge il titolo stupito e dice wow, incredibile, andiamo a vedere cos'è questa cosa. Uno va sul sito, poi magari il titolo è molto fuorviante, la notizia non corrisponde alla realtà, oppure su certi siti, tipo Libero Giornale, quelli che erano stati citati prima, la notizia e anche l'articolo sono completamente fasulli, però... A volte solo un titolo, che so, sconvolgente, appare nuda nel corso cittadino, vai a vedere, in realtà ti appiccicano un abbonamento a un corso di cucina e nemmeno te ne accorgi. No, quello molto difficile, però il concetto è che l'articolo, quando viene condiviso sui social, chi gestisce questa cosa può anche modificare il titolo che viene visto sul social rispetto al titolo che è nell'articolo originale. Quindi magari lascia il titolo a metà con tre punti di sospensione, quindi per capire del tutto la notizia uno deve per forza cliccare. E molto spesso la notizia è completamente inventata, molto spesso il titolo è fuorviante, poi se vai a leggere l'articolo la cosa risulta completamente diversa come uno se l'era immaginato. Comunque, diciamo che l'aspetto scuro, allora, dei social è proprio questo. In realtà ci sono tanti sistemi trappola, sono dei sistemi come fosse il miele su un'esca, capito? Che hanno soltanto lo scopo di convogliare molta gente su un titolo altisonante, su un'immagine che sembra chissà cosa si veda, su un filmato che promette meraviglie o su una frase effetto di un politico, è proprio quello che tutti in quel momento immagino che vorrebbero sentirsi dire a quel politico, o per confermare o per avversare quello che è una loro idea, un loro pregiudizio. Ci fermiamo un istante. Ciao, sono Enrico Ruggeri. Tutti i giorni a Il Falco e il Gabbiano vi racconto storie di vite straordinarie che con un colpo d'ala hanno saputo cambiare il loro destino e quello di tante persone. Vi aspetto alle 15:30 tutti i giorni su Radio 24. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presento Melog, cronache meridiane. È facile donare il sangue per un politico. Cosa c'è? Io, che sono un cittadino comune, quando dono il sangue non lo sbandiera ai 420. Vabbè, ma che, lei è andato a donare il sangue? Io? No, chiedo, lei è andato a donare il sangue? Stavo per andare a donare il sangue. Ah. Solo che la lobby del Big Pharma... Chi ha messo il prelievo alle 8 del mattino? Ma che lobby? Bastardi, è un complotto per non farmi donare il sangue. Ma non è un complotto, solo perché... Ma! Lei è andato a spalare a Genova? Dovevo andare. Ah no, perché... Solo che avevo la macchina senza il bollo. E quindi? 800024, 0024. Oggi parliamo della fabbrica delle bufale in rete. È stabilito, accertato, ci sono le prove concrete che in rete esista una fabbrica di costruzione di notizie false. False, clamorose, ridondanti, appetibili, sessualmente vellicabili, che danno un profitto economico innanzitutto a chi investe in questo meccanismo, ma anche un profitto dal punto di vista del controllo dell'opinione a chi in queste notizie poi affida anche un messaggio politico. Questo va detto da qualunque parte venga. Non leggo gli SMS che appartengono comunque a una forma di feedback retrogrado che uso soltanto quando voglio fare la vittima, se no dovrei dirvi che mi dicono che non è vero che tutti gli italiani hanno uno smartphone, oppure dovrete spazzare via tutta questa spazzatura, compresa Wikipedia. Cosa c'entra Wikipedia con i giornali finti in rete? Non proprio, che è una delle poche cose funzionali, utili, interessanti. Nessuno più lavorerebbe nel nostro settore se non ci fosse Wikipedia, diciamo la verità. Anzi, Walter Quattrociocchi, buongiorno. Buongiorno. Walter Quattrociocchi, l'abbiamo avuto qualche tempo fa in trasmissione, è un ricercatore, dirige il laboratorio di scienze sociali computazionali, l'istituto IMT di Lucca, è autore del libro scritto insieme a Antonella vicini, Misinformation guida la società dell'informazione e della credulità. Franco Angeli. Anche lei, Quattro Ciocchi, è, diciamo, in questo gruppo di persone che sta osservando la grande scaturigine delle bufale. Sa dirmi qualcosa di più sull'origine, diciamo, organizzata, sul cervello centrale di questi sistemi? Ma io, nel senso, noi facciamo degli studi proprio per cercare di capire le dinamiche sociali e quindi in qualche modo facciamo parte di questo tavolo portando la nostra esperienza. L'esperienza diretta è quella che non c'è una centralizzazione, cioè cercare una centralizzazione di questo è in qualche modo ridurre e fare un po' quello che fa Napalm 51. Cioè l'effetto dell'informazione falsa è un effetto emergente, è un risultato di una dibattito, dialogo, modalità di interazione sui social che è molto molto violenta e molto orientata all'argomentazione e alla vessazione dell'altro. Beh, io ho letto comunque tutti questi siti che abbiamo citato, poi magari sentiamo Paolo Ottivissimo che su questo ha magari maggiore documentazione, i giornali dei titoli falsi partono dalla società bulgara, si chiama Edinet, che proprio parte dalla Bulgaria. È una delle tante, e questo è l'effetto, non la causa. La causa è la polarizzazione sui social, c'è la gente che è stanca, c'è un'indignazione che facilmente si accende e ovviamente più si accende più le persone vengono coinvolte nel dibattito e sono pronti a sfogare l'odio e rabbia. Comunque un meccanismo simile a quello, diciamo, del marketing, hanno una richiesta da parte di un possibile utente che è quella di sfogare la rabbia, trovare dei capri espiatori per la rabbia. Giorni fa abbiamo parlato del caso di Bello Figo, che è diventato in questo momento l'icona di tutta l'avversione per lo straniero, e quindi gli danno quello che vuole. Esattamente, è il biscottino che in quel momento sfama la rabbia di tante persone. Sì, esatto, ma il problema grosso, l'effetto collaterale di questa cosa è che potrebbe far partire la caccia alle streghe, nel senso il bellissimo lavoro che hanno fatto Paolo e David, per esempio, può essere strumentalizzato da una parte dell'opinione pubblica per attaccare chi la pensa diversamente, chi è contro il mainstream, e questo crea ancora ulteriore acredine e polarizzazione. Cioè pensare al Ministero della Verità comincia a diventare una cosa abbastanza agghiacciante. Vediamo pure quello che diceva oggi la Merkel in merito a multare Facebook. E adesso questo abbiamo una persona, adesso ci dirà questa cosa qui, di dare una multa su Facebook per chi fa bufale, che mi sembra ancora più difficile. È già difficile dare multe per divieto di sosta, già, figuriamoci. Andrea Rossetti, velocemente. Sì, ciao. Andrea Rossetti, Luca. Ricordo che è il nostro professore di informatica giuridica, visto che l'ha citato Quattro Ciocchi, sulla notizia di questa mattina, cioè di ieri pomeriggio, che la Merkel avrebbe l'idea di dare una multa a chi diffonde bufale in rete. Sì, è totalmente ovviamente irrealizzabile una cosa del genere, no? Appunto perché ci servirebbe una redazione che faccia fact-checking ogni volta che qualcuno segnala una bufala. Sarebbe una cosa economicamente impossibile, direi, insomma, e soprattutto non teniamo presente il fatto, appunto, che molti studi mostrano che in un gruppo l'1% delle persone è quella che è davvero attivo, e questo 1%, come diceva l'ospite che stava parlando prima, è in grado effettivamente di polarizzare l'informazione, e quindi potrebbero anche essere paradossalmente segnalate come bufale le notizie che sono vere. L'effetto sarebbe ovviamente devastante, non ci sarebbe nessun miglioramento in realtà dell'informazione, ma ci sarebbe semplicemente una potenziale censura preventiva da parte di autorità governative, cosa che in uno Stato occidentale moderno è francamente inaccettabile. Allora Andrea, però c'è un'altra vicenda, noi siamo spesso detti riguardo, non so, all'insulto in rete, alla diffamazione in rete, che gli strumenti giuridici ci sono già, anche quelli del vecchio mondo concreto ancora funzionano. Nel caso appunto della diffusione di notizie false, che creano scompiglio, creano turbamento, diffamano l'onorabilità di una persona, anche se si tratta di un politico, ha comunque un'onorabilità da difendere. Ci sono strumenti giuridici per intervenire? No, gli strumenti giuridici sono quelli tradizionali. È chiaro che dobbiamo anche tutto sommato abituarci a, insomma, in qualche modo recepire con maggiore leggerezza le cose che vengono dette in rete. Finché non c'è un reale danno non si può procedere dal punto di vista giuridico, questa deve essere la cosa fondamentale, insomma. Quindi la diffusione di una notizia, per essere effettivamente perseguibile, deve avere effettivamente provocato un danno o un'altra persona oppure un provocato allarme, insomma. Però al di fuori di questi contesti diventa veramente pericoloso poter pensare di mettere dei limiti a quello che viene scritto in rete. Walter Quattro Ciocchi, Poi per il fatto si crebbero a questo punto, comincerò a nascere i primi eroi, i primi i martiri del libero pensiero. Qual è invece lo strumento saggio e culturalmente efficace per creare un fronte rispetto alla falsa notizia? Noi stiamo lavorando in questi giorni molto intensamente con colleghi della World Economic Forum, dell'EPFL e altri colleghi in Italia per creare un osservatorio che praticamente serva in qualche modo a capire che cosa succede sui social e soprattutto cosa polarizza, perché in uno studio che stiamo facendo adesso notiamo che le bufale hanno come argomento predominante l'argomento polarizzante del momento, tipo quindi le tasse, l'immigrazione e tutto. Quindi bisogna entrare, creare delle sinergie e lavorare affinché questa polarizzazione, questa grossa acredine in qualche modo venga un pochino attenuata, e stiamo cercando di creare un panel di esperti. E un altro aspetto molto importante è la divulgazione, cioè questo problema va dichiarato e va spiegato in tutto e per tutto, spiegando che nessuno è immune, non esiste la parte buona e la parte cattiva, siamo tutti quanti figli della stessa scimmia. Confirmation bias in qualche modo ci riguarda tutti indiscriminatamente. Allora, però quanto ciò che le chiedo una domanda specifica all'istante, perché ha usato tanto il termine italiota? Le dico, sto parlando, ma come accade spesso, arriva due sms che fanno parte comunque dei Napalm 51 della radio: Nicoletti, l'unica bufala sei tu, falso giornalista, poi stai descrivendo la categoria dei giornalisti italioti. Perché è riemerso questo termine italiota, che mi sembra che faccia proprio parte di questo sistema? Perché c'è una denigrazione contro tutto quello che è mainstream, contro lo stato dei fatti, perché lo stato dei fatti in qualche modo ha causato un disagio forte sia economico che sociale. Indubbiamente, indubbiamente. E quindi diciamo anche diciamo il lessico bufalaro contamina persone che mai avrebbero detto italiota nella loro vita, oggi dicono italiota. Italiota è una delle parole che vedo rivolgermi più frequentemente. Italiota è una deformazione dell'essere italiano, il lato peggiore deletereo dell'italianità. Perché il giornalista è sempre italiota, oltre a essere servo e via dicendo? Hermes Maiolica, buongiorno. Ciao, buongiorno. Hermes Maiolica, lei vi ha definito il re delle bufale. Lei di mestiere fa esattamente questo, mette le bufale in rete. Sì. Qual è la più clamorosa? Che la moglie di Renzi avrebbe votato no? Come le è venuto in mente? Beh, ho approfittato, come diceva Quattro Ciotti, no? L'argomento del momento, e ho studiato un po' i comportamenti della gente nei gruppi di discussione, nei social. Quindi lei fa un'analisi prima di mettere in giro una bufala, capisce qual è la bufala che funziona? Sì, bisogna trovare un po' il nervo scoperto, no? In alcuni casi, poi ci sono vari tipi di bufale, ogni bufala è diversa, però certo quelle che toccano l'argomento attuale sono quelle più facili. Ma infatti Renzi ha dovuto smentire addirittura questa cosa che la moglie avrebbe... lei ride, sì. Però ha creato sì. Uno scompiglio. No, beh, ha fatto anche un po' la vittima, perché in realtà non creano realmente dei danni. Dopo vengono anche strumentalizzate un po' queste bufale. No? Lei si è anche inventato che Umberto Eco avrebbe votato sì, che era già morto. Ma lo sapeva, sì. Che era morto, ma lo sapeva, sì, lei che sì. Era... E quindi un morto che vota sì, come le è venuto in mente? Sì, beh, ho potuto creare il paradosso, cioè proprio l'assurdo, no? Una specie di teatro dell'assurdo, proprio... Un personaggio morto, vede come avrebbe reagito la gente, visto che ho toccato sempre, no? Quel nervo scoperto, ho visto che qualunque cosa gli si dava in pasto reagivano. Ma lei mi faccia capire, ma io, lei di mestiere che fa? No, io faccio l'operaio, infatti adesso sto dentro l'azienda e sono dovuto nascondere in bagno per rispondere. Ecco, fa l'operaio, ma quindi questo è il suo hobby? Quando lei torna a casa, diffonde bufale? Sì, è solo un hobby e lo faccio anche di lato, non è, lo faccio sempre. Ma ci prende soldi, qualcuno la paga, no, per questo? No, ho sempre rifiutato ogni tipo di compenso. Ma qualcuno gli ha offerto soldi per questo? Sì, beh, è normale, sai com'è, a un certo punto, e tuttora, no, sono descritto come il bufalaro più bravo, il più grande viralizzatore di notizie, è normale, dopo i siti ti contattano, e il blog, e soprattutto anche questi siti acchiappa click, che fanno anche cose eticamente sbagliate, come divulgare notizie che incitano un pochino all'odio, al razzismo. Quindi lei lo fa semplicemente così, come una volta c'era il fenomeno Luther Blissett, questi che volevano dire... Bravo, sì, è una cosa situazionista. Lei è un operaio situazionista, in questo momento. Mi sembra, quanto tempo dedica alla fabbrica delle bufale? Ma niente, perché mi vengono al lavoro in giro, e dopo applicarle ci vuole veramente un secondo. Mentre lavora ci pensa. Va bene, resti un attimo in ascolto. Sì. Palo attivissimo. Hermes Maiolica ha a che fare con le persone, con le situazioni, con le organizzazioni che stai studiando? O è semplicemente lui, come ha detto lui, un operaio situazionista di Terni che si diverte così? Ma è una bellissima definizione sulla quale sono perfettamente d'accordo. No, sono due fenomeni completamente separati. È un semplice cazzaro, lui lo fa perché si diverte, fine. Esatto, esatto. E penso che sia un'occasione anche per riflettere sul modo in cui ci facciamo sviare troppo facilmente anche da un operaio situazionista. Pensiamo un attimo, quando inoltriamo qualche cosa, magari chi l'ha fabbricata questa notizia, qual è la fonte? Vediamo prima di mandarla in giro. È una bella lezione per tutti, credo, il lavoro di Hermes. Allora resta un attimo in ascolto, che vorrò fra un istante, dopo la pausa, che tu mi racconti esattamente intanto il meccanismo al quale siete risaliti, dettagliando poi i giornali dei titoli falsi, dove stanno, diciamo, il luogo dove fisicamente comunque vengono elaborati i dati che poi vengono diffusi attraverso queste finte testate. Ci fermiamo un istante. Melog, cronache meridiane. 800240024, parliamo di bufale in rete. Ho chiesto a Paolo Ottivissimo un istante fa, che è un giornalista, ha fondato il blog Il Disinformatico, dedicato alle bufale nel web. Cosa c'è in questo momento di certezza rispetto a quel filone di scaturigine, di origine delle bufale su cui lui sta lavorando? Paolo. Sappiamo che c'è una società che ha sede a Sofia, in Bulgaria, si chiama Edinet, è intestata a un cittadino italiano, e questa società gestisce dei siti che hanno vari nomi, come quelli che abbiamo citato prima, news24tg.com, Gazzetta della Sera, Il Fatto Quotidiano, notizia5stelle.com, perché è molto importante chiarire che questo genere di bufala tocca tutti i nomi famosi, tutti i movimenti politici, e molto spesso fa danni contro questi movimenti politici, compreso 5 Stelle. E attraverso queste testate vengono diffuse delle notizie. Dove vengono fabbricate materialmente e chi le fabbrica, questo è difficile da capire perché internet è molto fluido da questo punto di vista, però è possibile rintracciare un collegamento fra questi siti. Quello che capita molto spesso è che gli utenti vedono su Facebook il titolo, lo strillo, come appunto nel caso di Gentiloni, vedono come indicazione della fonte Libero Giornale e non cliccano oltre, la inoltrano a tutti, la segnalano in bacheca e via dicendo. Se la gente condivide ancora prima di leggere, devo esatto, dire, quando basta è indignato. Il titolo shock, non c'è bisogno di leggere i dettagli, basta il titolo, è sufficiente. E solo che questo sistema, questo modo in magari cui aggiungendo Facebook... il termine povera Italia, tutti sono esatto. Povera Italia. Questo modo in cui Facebook presenta in modo molto piatto, senza dettagli, le notizie, rende difficile per l'utente capire qual è la fonte di queste notizie, e quindi soprattutto poi è quasi impossibile per un utente non esperto accorgersi che queste testate dai nomi così apparentemente diversi, da News24TG... Sì, perché anche i font vanno a imitare più o meno i font dei titoli dei giornali molte volte. Sì, beh, credo che faccia parte di un piano abbastanza chiaro per sembrare autorevoli, ispirandosi ad alcuni. Ce ne sono altri che sono abbastanza spiritosi, c'è per esempio uscito recentemente Il Fallo Quotidiano, però la grafica è molto simile, c'è Il Giomale per esempio, che la cui grafica è fatta in modo che la M sembri la R e la N, per cui molti utenti leggono ilgiornale.it. Vabbè, questo fa parte, diciamo, del diritto di esprimersi satiricamente, una visione più rozza del male, che era un noto giornale satirico, ma quando la mistificazione è vicina comunque alla truffa è meno facile. Hermes Maiolica, velocemente, ma attraverso quali strumenti lei diffonde le bufale? Qual è il suo meccanismo principale? Twitter, Facebook, come fa? Facebook e i gruppi di discussione di Facebook. Ah, il gruppo, tutto nasce da lì. Lei va in un gruppo di discussione, scrive una cazzata e subito va in giro per il mondo. Sì, cerco di alimentare il flame, no? Che sarebbe la discussione, i commenti. Ma tutti lo sanno che lei ormai cambia nome, lo fa con vari nomi. Io profilo falso, ovviamente. Quanti ne ha? Quanti profili falsi ha? Uno, lo faccio, quando me lo chiudono uno ne faccio un altro. Ah, quindi cambia continuamente, sì. Finché dura tengo uno. La gente è facile che creda alle cose che vuol credere? All'epoca era un po' più credulona, se devo dire il vero, adesso un pochino ci sta un po' più attenta, a me non mi sembra, girano uguale le bufale, non lo so, però nei gruppi sembra che se ne accorgono prima che la notizia è falsa. Allora, Walter Quattrociocchi, che è lo studioso, che ha proprio un gruppo di ricerca che questo sta studiando, proprio l'onda come funziona, secondo lei all'origine del meccanismo che voi state studiando con criteri scientifici, ci sono persone come Maiolica, hanno un loro istinto, anche loro hanno una capacità di individuare qual è l'area nevralgica su cui poi poter intervenire con la loro cazzata? sì, nel senso i nostri studi cominciarono proprio frequentando un gruppo come questi. C'era un gruppo nel 2012 che si occupava di prendere in giro i grillini e altre narrazioni tipo quella filovegana, e individuammo che era abbastanza facile diffondere un'informazione completamente fasulla, mettendo dettagli che dicessero che era fasulla, entrava nell'echo chamber, nella narrazione del gruppo, e diventava virale. Ma i terrapiattisti, per esempio, quelli che dicono che la terra è piatta, sono credibili? Lo credono veramente o fa parte del grande fenomeno della confusione? Penso che ci sono alcuni che lo credano, nel senso l'atteggiamento è sempre quello anti quello che ci hanno raccontato. La terra è piatta. Sì, ma e poi oltretutto è bello anche che ci siano liberi di crederlo. Vabbè, certo. Il problema di censurare, poi censuriamo anche le pagine cattoliche, lì è molto pericoloso l'atteggiamento che si prende. L'importante è che non ci sia danno e rilevanza penale. Per il resto c'è libera libertà, insomma, viva la libertà. Andrea Rossetti, non è giusto censurare, siamo d'accordo, sennò non avrebbe ragione di esistere la rete. Gli strumenti giuridici di intervento sono quelli tradizionali e soltanto quando si entra nel campo del reato. Qual è l'azione culturale per un progresso digitale dell'umanità da fare di fronte a questi fenomeni? Ridere soltanto, sorridere, sviscerarli, analizzarli? Oppure sono proprio gli organi di stampa, visto che mi prendo dell'italiota e del servo del potere. Non è che la stampa ufficiale dà troppa credito, troppa eco molte volte a questi fenomeni? Il fatto di Gentiloni è diventato un titolo sui giornali. Hanno scritto la stupidaggine che Gentiloni ha detto questo e diventa un titolo. Indubbiamente c'è questo problema: quando una notizia che sul giro per la rete viene ripresa dai media mainstream viene amplificata. Questa è la prima cosa: il giornalista dovrebbe fare molta più attenzione a quello che mandano in giro. Non è facilissimo, perché cascare in un momento di disattenzione dentro una bufala può capitare francamente a tutti, voglio dire, è veramente nessuno immune, lo dice sempre Paolo, no? L'attivissimo, bisogna stare attenti perché alta prima o poi anche noi potremmo essere vittime di una truffa o cadere in una bufala. Questa poi, è la cosa la frase terribile: chi sta dentro al meccanismo, e quando ti chiamano il direttore dice no, è carina questa, scrivici comunque qualcosa, un commento divertito, così la gente molto spesso non capisce che il tuo è un commento per dire che è una stupidaggine, esatto. Pensa che avvalori l'esistenza. Elisa, buongiorno. Elisa. Salve, buongiorno. Sì. Io volevo semplicemente dire che io sono una collaboratrice di Paolo Attivissimo, salve, perché già da tanti anni, appena l'ho conosciuto, io ho cominciato a usare il suo sito. Praticamente c'era il periodo quando arrivavano via email questi messaggi da far girare con un quintale di indirizzi visibili, tra l'altro, questa era un'altra cosa che mi mandava in bestia. E io, quando ho scoperto con Paolo Attivissimo che si poteva fare in 30 secondi la ricerca di la verifica, no? Mettevo le due parole chiave sul motore di ricerca e mi usciva subito la conferma o no della bufala e la motivazione. E però io perdevo quei 5 minuti per trascrivere, copiare e incollare in un messaggio e rimandare, rispondere a tutti i destinatari. Sì, al quale... L'ignoranza e non saper usare, diciamo, la copia nascosta fa sì che poi ognuno che risponde anche a te. Perfetto. Per toglierti da queste reti è impossibile. Poi questa era la mia vendetta, però, perché io in quel modo sbugiardavo il mittente originario e mandavo a tutti la notizia che quella era una bufala e che il tizio aveva mandato in maniera superficiale, aveva mandato una cosa non vera. Adesso succede la stessa cosa con WhatsApp, ma poi io mi chiedo a che serve mandare in giro un messaggio falso di una ricerca di sangue per una bambina. Vabbè, questa è una figura, si va dai gattini abbandonati che cercano il padrone a dei bambini che cercano il sangue, vorrebbero prima di morire vedere, non so, che gli mandino tanti pupazzetti, tante cose. A volte sono delle situazioni all'origine veramente molto tristi, a volte è semplicemente speculare su quello che è il corrispondente del buonanimo che una volta avevano le signore di buon lignaggio quando davano un po' di cioccolata ai poveri per strada e c'erano tenga buon uomo, e con quello avevano a posto la coscienza. Ci sentiamo alla prossima.